Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Forse non esistono al mondo note più compiutamente, visceralmente americane di quelle che state ascoltando in questo istante. Ed è proprio in America che l'autore di queste stesse note ha venduto ben 65 milioni di dischi. Milioni che balzano a quota a 120, se si contano anche le copie vendute in tutto il resto del globo. I numeri di questo artista sono davvero impressionanti. Tra dischi d'oro, di platino e di diamante si supera il centinaio in un batter d'occhio. 20 Grammy Awards, un Oscar nel 1994 per la struggente Streets of Philadelphia, 2 Golden Globe, e potremmo continuare a lungo con questo ritmo vorticoso e crescente. Ecco il palmarès da record di Bruce Springsteen, musicista ormai da tempo entrato nel mito. Quasi 30 album pubblicati in quasi 40 anni di carriera. L'ultima fatica, Wrecking Ball, è uscita sotto l'etichetta Columbia Records lo scorso 5 marzo, balzando al numero 1 delle classifiche in 16 paesi, diventando il suo decimo number one album negli Stati Uniti ed eguagliando l'impresa di uno degli eroi del rock and roll, niente meno che Elvis Presley. Bruce Springsteen è una certezza, un punto di riferimento per il popolo americano così come per quello del resto del mondo. Lo testimoniano i suoi tour interminabili, gli stadi gremiti, la strabiliante compartecipazione emotiva di milioni di persone che con tutta probabilità sul suolo americano non hanno nemmeno mai messo piede. Un cantante americano, anzi un cantore dell'America che ormai sa parlare a un pubblico sconfinato, molto più vasto di quello della terra natia, e sa farlo spaziando dalle trasognate elegie acustiche suonate in punta di dita, solo con i suoi pensieri e la sua chitarra, alla forza dirompente sprigionata da una miriade di strumenti fatti vibrare insieme ai suoi fratelli di sangue, quelli della storica e affiatatissima E Street Band. Bruce Springsteen, born in the USA, nato negli Stati Uniti, è arrivato lontano, lontanissimo dai confini di quel New Jersey in cui è nato e cresciuto. Dal cuore dell'America ai cuori di decine di milioni di fan. Un viaggio possibile solo grazie allo straordinario, catartico potere della sua musica. Qual è stato il percorso che ha portato un ragazzo qualunque del New Jersey a diventare The Boss, letteralmente il capo, la voce più rappresentativa della coscienza statunitense, forse occidentale, degli ultimi 4 decenni? Quali sono stati i suoi incontri fondanti con altre grandiose personalità della musica che ne hanno influenzato e scolpito la personalità umana e musicale, fino a trasformarlo in una vera gigantesca icona della contemporaneità? Oggi vi parleremo degli incontri, dei magnifici destini che hanno contribuito a fare di Bruce Springsteen il più grande cantore dell'America contemporanea. Andiamo all'inizio degli anni 70. È Bruce in persona a fornirci la prima, importantissima chiave di lettura del suo percorso personale e artistico. Non avrei mai pensato di aprire un concerto per gente del calibro di Chuck Berry e Jerry Lee Lewis. Avevo 23-24 anni e loro erano i miei eroi. Servivo una band che li facesse da gruppo di supporto e io e il mio gruppo ci siamo offerti. Era l'epoca in cui era uscito il mio primo disco all'incirca. Abbiamo suonato per circa mezz'ora e ce la siamo cavata piuttosto bene. Inizia ad esserci un certo fermento verso le 8 di sera di un sabato di aprile del 1973 nella Caulfield House della University of Maryland, non lontano dalla capitale degli Stati Uniti, Washington DC. È qui che si tiene il concerto di due mostri della musica, di due conclamate star del rock and roll, Jerry Lee Lewis e Chuck Berry. Due nomi che nell'ambito del loro genere musicale e anche al di fuori dei suoi confini sono garanzie di successo e di entusiasta partecipazione del pubblico. Per Bruce è un sogno che si avvera. Quella sera la Caulfield House è il tempio del rock and roll e lui è chiamato a officiare la funzione insieme ai più grandi, agli idoli che venera fin da ragazzo. Chuck Berry, agli occhi di Bruce Springsteen, è il sommo sacerdote del rock and roll. Il rock and roll è il genere musicale che nel secondo dopoguerra ha sconvolto il panorama mondiale con una energia senza precedenti. Dopo Enola Gay e la bomba H su Hiroshima, un'altra deflagrazione è all'orizzonte. È quella fatta di chitarre, ritmi e riff accattivanti, movenze e attitudini danzerecce incontenibili. Lo scopo dichiarato del rock and roll è quello di sradicare le convenzioni. L'America degli anni 50 affronta il cambiamento e i giovani, stanchi della morale borghese, fanno di tutto per ribellarsi all'autorità. Nelle città, nelle province, in tutte le strade, esplode incontenibile l'entusiasmo dopo i disastri e le difficoltà della guerra. Le nascite subiscono un'impennata dando origine al cosiddetto baby boom. E mentre in giro fioriscono i drive-in, nei bar accanto ai flipper spuntano quei jukebox in cui i pezzi di artisti come Chuck Berry non mancano mai. Bruce Springsteen, classe 1949, in quegli anni è solo un bambino, ma non è affatto immune all'ondata di novità che sta travolgendo la musica e la società. Bruce è piccolo, ma è una spugna. Assorbe il fermento di quel periodo e saprà farne tesoro in modo personalissimo. Innanzitutto saprà capitalizzare tutta quell'energia incanalandola nella forza della musica. Se Chuck Berry è oggi universalmente riconosciuto come uno degli iniziatori del rock and roll, è per merito del suo strabiliante uso della chitarra. È proprio osservando e ascoltando le sue performance che un giovanissimo Bruce capirà di volere imbracciare anche lui al più presto una chitarra. La sua presenza sul palco è ipnotica, proprio come quella di un altro monumento musicale di quegli anni, il grande Elvis Presley. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. L'influenza di Elvis Presley, così come quella di Chuck Berry, è capitale nel percorso di formazione del giovane Springsteen. L'apparizione di Presley sul celeberrimo palcoscenico dell'Ed Sullivan Show costituisce una visione e un'esperienza indimenticabile per milioni di americani seduti davanti al piccolo schermo, e Bruce non fa certo eccezione. È il 6 gennaio del 1957, Bruce ha 7 anni. È una domenica sera e la famiglia Springsteen è riunita sul divano di casa per ammirare l'apparizione di un idolo. Bruce non riesce proprio a stare seduto. Prima inizia progressivamente a sporgersi con la testa in direzione della lastra di vetro bombato dello schermo. Poi si siede sul pavimento, si avvicina sempre più alla TV, fino a ritrovarsela a pochi centimetri dalla faccia. «Non entrare con la testa nel televisore!» esclama sua madre tra l'arrabbiato, il premuroso e il divertito. Bruce non la sente nemmeno pronunciare quella frase. È rapito dalle movenze di quel giovanotto sorridente, perfettamente a suo agio sulla scena. Elvis non è semplicemente se stesso in quel momento, ma rappresenta il sogno per milioni di americani. Il sogno di una realtà diversa, parallela, migliore. Elvis evoked a world, a time and a place, and a very specific sort of world, people on the sunset. Elvis ha evocato, ha inventato un mondo, un tempo, un luogo, una serie di coordinate specifiche irripetibili. Beh, pensate alle Sunsession. Lui, insieme ad altri grandi musicisti, ha saputo creare un universo molto complesso in cui tuffarsi dentro e sguazzarci e restarci completamente immerso. Per Bruce, Elvis, Chuck Berry e i padri del rock and roll sono gli inventori di un universo musicale in cui crogiolarsi, in cui indugiare per scordare il grigiore e lo squallore della vita di provincia nella quale vive. Là fuori c'è un'America fatta di sogni, di ribellione, di sesso, di musica, di energia. E lui vuole inseguirla, vuole conoscerla, vuole cantarla. Bruce inizia a esercitarsi sulla sua chitarra in maniera forsennata. Imbracciare quello strumento, pizzicare le sue corde con le dita, è per lui l'unico modo di sentirsi vivo, addirittura di riconoscersi allo specchio. A scuola non si impegna, ma non perché sia un lavativo, percepisce semplicemente l'inutilità e la retorica di un certo tipo di insegnamento scolastico. Abbiamo imparato più da un disco di 3 minuti che da ciò che ci hanno insegnato a scuola. Per l'intero corso degli anni 60, la scena musicale del New Jersey è estremamente viva. Sono molti i locali che ospitano ogni sera le band emergenti e fra queste anche le prime formazioni in cui milita Bruce, gruppi dai nomi improbabili come The Castiles, Dr. Zoom and the Sonic Boom, Steel Mill. Qui incontra i futuri membri della E Street Band. Qui esercita il suo leggendario piglio live. Per tutta la vita sono stato circondato da persone la cui esistenza si limitava ai compromessi. Non conoscevano altro. È in questo senso che il rock and roll è importante, capisci? Perché ha dimostrato che esiste un altro modo di vivere. Questo è il motivo per cui io scrivo il tipo di canzoni che scrivo. Per questo, ogni sera suoniamo più che possiamo, più forte che possiamo. Voglio poter essere in grado di tornare a casa e dire che ce l'ho messa tutta stasera. E perché no? Magari anche un po' di più. Sul palco Bruce ce la mette tutta, tanto più se si trova al cospetto di un gigante come Chuck Berry. Ecco il primo vero incontro fondante della carriera di Springsteen. In una sera dell'aprile del 73, alla Caulfield House di College Park, nel Maryland, c'è un pubblico gremito in attesa di sentire dal vivo il proprio idolo, che è anche l'idolo, manco a dirlo, dello stesso Bruce. Oh, è stata una di quelle serate incredibili. Una di quelle che quando hai 70 anni racconti le favole ai tuoi nipoti e loro ti chiedono: nonno, raccontaci di Chuck Berry. E allora tu gli dici: beh, io Chuck Berry l'ho incontrato, l'ho conosciuto, gli ho fatto da spalle in un concerto. E allora loro esclamano estasiati: davvero? E tu gli dici: sì, ragazzo mio, davvero. Non vedo l'ora di raccontare questa storia. Quella sera Bruce Springsteen va a lezione da una leggenda del rock and roll. Osserva la sua presenza scenica sul palco, il suo modo di muoversi, di imbracciare la chitarra, di conquistarsi il pubblico. Cerca di imitarlo, di assorbire la sua aura, di carpirne i segreti. Sente che il destino lo ha messo in contatto con Berry per una ragione, per insegnargli a stare su un palco. Molti anni più tardi, quando avrà occasione di suonare insieme a Berry Johnny B. Goode, forse il suo pezzo più famoso in assoluto, Springsteen sarà già una star mondiale e avrà fatto tesoro degli insegnamenti di un così grande maestro. Nella primavera del 1973, un rocker di Freehold, New Jersey, cerca la sua strada verso il successo. Il suo nome è Bruce Springsteen e il suo percorso passa da molti, moltissimi palcoscenici della provincia americana. La Gavetta Live è una delle colonne portanti della sua formazione. È davanti al pubblico che il giovane Springsteen sa esprimere al meglio la sua vena folk, così radicata nell'immaginario della sua terra, unendola indissolubilmente agli echi mutuati dal rock and roll. Springsteen, a metà degli anni 70, si trova in un momento cruciale per la sua carriera. Dopo essersi fatto notare in tournée nei locali per qualche anno, nel 1972 ottiene finalmente un'audizione alla Columbia Records con il leggendario talent scout John Hammond, responsabile della scoperta di voci come quelle di Aretha Franklin, Billie Holiday, Bob Dylan. È sotto l'etichetta Columbia che nel gennaio del 73 esce il suo primo disco, Greetings from Asbury Park, New Jersey. L'album è un fiasco nei negozi, così come lo sarà il suo secondo lavoro dal titolo The Wild, The Innocent and the East Street Shuffle. In compenso però Bruce continua a macinare live, affinando sempre più le sue capacità di indiscusso mattatore del palcoscenico. Nei primi mesi del 1974 lui e la sua band fanno da spalla a Bonnie Raitt, acclamata folk singer dalla voce d'usignolo. Bonnie Raitt vive un grande momento di notorietà. I due sono molto amici e per Springsteen è un onore, oltre che un piacere, aprire i suoi concerti. Nel maggio del 1974, all'Harvard Square Theater di Cambridge, Massachusetts, Bruce fa l'indiavolato sul palco, mentre un giovane critico musicale, John Landau, lo osserva estasiato dalla platea. Per lui Springsteen è un fenomeno e non riesce a trattenere la gioia di poterlo ammirare nuovamente su un palcoscenico. Questa volta però è diverso. Springsteen gli sembra ulteriormente maturato rispetto alle sue prove precedenti e soprattutto rispetto alla sua resa su disco. Dal vivo la sua carica è sorprendente e quella sera in particolare Bruce sembra inarrestabile. Se ne accorgono tutti, anche i fan di Bonnie Raitt, che finito il tempo a disposizione di Springsteen prima del main act lo acclamano a gran voce pregandolo di concedere qualche bis. Landau, addirittura frastornato per la potenza dell'esibizione di Bruce, al termine del concerto si precipita a casa a scrivere le proprie impressioni a caldo, prima che tutto quel coacervo di magnifiche sensazioni gli sfugga via. Era la notte prima del mio 27° compleanno. Tornai a casa eccitatissimo e alle 4 di mattina mi misi subito a scrivere un articolo per il giornale. Alle 4 di mattina. Non potevo tenermi dentro le sensazioni provate quella sera. Landau, estasiato, fa quasi fatica a mettere in fila tutti i suoi pensieri. Butta giù le idee di getto, quasi in preda a una specie di trance. Le sue sono parole che sgorgano dal cuore, lo stesso cuore affamato di musica, di emozioni, di ideali che batte nel petto di Bruce Springsteen e di una nazione intera, la sua. Giovedì scorso all'Harvard Square Theater ho visto il mio passato rock balenarmi davanti agli occhi. E ho visto qualcos'altro. Ho visto il futuro del rock and roll. E il suo nome è Bruce Springsteen. E in una notte in cui avevo voglia di sentirmi giovane, mi ha fatto sentire come se stessi ascoltando la musica per la prima volta. Quella sera di maggio del 74, Landau vede in Bruce Springsteen il futuro della musica. E l'opinione di un critico forse mediocre, lontano dai fasti e dagli allori giornalistici dei grandi critici musicali, può darsi. Eppure quella sera Landau ha pienamente ragione e le sue parole resteranno scolpite per sempre nella storia. Il disco a cui Springsteen sta lavorando alacremente nelle pause tra un concerto e l'altro, fino a quel momento ha avuto una difficile gestazione. Uscirà l'anno seguente e si intitolerà Born to Run, nato per correre. Sarà l'inizio vero e proprio di un mito. 25 agosto 1975, una data capitale nella vita e nella carriera di Bruce Springsteen. È il giorno in cui esce Born to Run, il suo terzo disco, il primo che gli faccia assaporare il successo. Tuttora è considerato uno dei 10 migliori dischi rock degli anni 70, una costruzione sonora in cui i personaggi si muovono in cerca di redenzione, sfruttando il tema del viaggio e quello della fuga verso una realtà migliore. Un disco che ricalca anche il percorso personale di Bruce. Per realizzare Born to Run abbiamo cantato anche fino all'esaurimento fisico. Venivo dagli spettacoli nei locali, tutte le notti nei bar in giro per l'America. Eravamo abituati a suonare per 3 ore minimo. Born to Run l'abbiamo suonata tanto prima di registrare. All'inizio c'era tanto pubblico, abbiamo provato molte varianti nella musica e nei testi e abbiamo provato e riprovato le nuove canzoni in giro nei locali. Io sentivo l'urgenza di cantarle. Springsteen, un asso dal vivo, non era mai riuscito a far suonare le sue canzoni con tanta magnificenza anche durante le sessioni di registrazione in studio. La presenza di John Landau, che ha abbandonato il suo mestiere di critico per buttarsi a capofitto nell'esperienza di consigliere e produttore springsteeniano, è un toccasana. È lui che fa la differenza e riesce a sbrogliare la difficile situazione creatasi per mesi in fase di incisione. Springsteen finisce nel giro di una settimana sulla copertina dei due più importanti settimanali americani, Time e Newsweek. Born to Run si fa notare anche oltreoceano, facendo capolino nella classifica britannica dei dischi più venduti. Un insperato successo di pubblico, cui si accompagna senza alcuna esitazione il plauso della critica. Il giornalista Mauro Zambellini, a proposito di Born to Run, parla di un album che anticipa il punk e si porta appresso un sogno di libertà che ha del religioso. Visioni, enfasi, rock and roll. Il sogno è lungo un giorno e una notte. Quanto basta per rimanere storditi una vita intera. Un disco anticipatore del punk non può che solleticare le orecchie e la sensibilità di un artista folle e geniale e controcorrente come la poetessa del rock, la celeberrima Patti Smith. È lei il secondo personaggio capace di lasciare un segno tangibile nel percorso musicale di Springsteen. Lui, naturalmente, non mancherà di lasciare il proprio nella sua. Oh baby. It would mean so much In quegli anni di fermento, di contestazioni e ansia di cambiamento, Patti Smith si inserisce nel panorama musicale con la potenza fragile e devastante del lirismo. È il 1975 quando lei e la sua neonata rock band pubblicano il primo disco dal titolo Horses. La Smith, da quel momento, sarà una delle personalità più in vista della scena artistica statunitense, e non solo. Se l'America negli anni 70 è il centro propulsore di tutta l'energia che sta rimescolando la cultura occidentale, New York è il vero teatro della trasformazione. Una città brulicante di personaggi e ideali tesi a sconvolgere e rimescolare le sorti dell'umanità anche a colpi di canzoni. Come si intrecciano i lirismi della poetessa del rock con la carriera di Bruce Springsteen? A partire da uno studio d'incisione, innanzitutto. È il 1978. Nelle stanze dei Record Plant Studios di New York, Bruce Springsteen, insieme alla E Street Band, sta lavorando al suo quarto album dal titolo Darkness on the Edge of Town. Nella stanza accanto ci sono Patti Smith e il suo fedele gruppo di musicisti, anch'essi assorbiti dalla lavorazione di Easter, nuova fatica della Smith. Entrambe le band sono seguite in questa delicata fase da Jimmy Iovine, scaltro produttore che nota immediatamente la difficoltà di Springsteen nell'approcciarsi a una sua canzone. È un pezzo che ha scritto con le sue stesse mani, eppure Bruce per una qualche ragione non riesce a farlo pienamente suo. Iovine ha un'idea, porta la demo tape di quel pezzo intitolato Because the Night nella stanza accanto. Patti Smith si mette in tasca la cassetta in maniera vagamente distratta. Ancora non lo sa che su quel nastro sono contenuti i semi di uno dei suoi più grandi successi. È lei stessa a parlarcene. I was in my apartment and I was having a long distance romance with Fred Sonic Smith. Ero nel mio appartamento e stavo aspettando una telefonata intercontinentale da Fred Sonic Smith, che poi sarebbe diventato mio marito. Avevo aspettato che mi chiamasse per ore. Credevo non avrebbe chiamato mai più. E allora ho preso quella cassetta. L'avevo già sentita, ma non l'avevo ascoltata con attenzione. È stato lì che ho capito. Mi bastava aggiungere i nomi. Quella canzone parlava di me. Parlava del mio amore per Fred. Nelle mani, e grazie alla voce un po' roca e sofferta di Patti Smith, Because the Night diventa una hit strepitosa. Springsteen ci ha messo la melodia, e la Smith, forte delle sensazioni regalatele dalla storia d'amore che sta vivendo, aggiunge le parole che a Bruce erano mancate. Il risultato è un singolo perfetto per lanciare l'album Easter, che diventa il successo commerciale più clamoroso e duraturo della Smith. E pensare che Springsteen in quella canzone non ci credeva. I knew that I wasn't going to finish the song. Because it was a love song. Oh, sapevo che non avrei finito quella canzone perché era una canzone d'amore. E io in quel momento non avevo testa per completare né per cantare una canzone d'amore. Insomma, una vera canzone d'amore, struggente, sentita come Because the Night. Diciamolo pure, forse ero troppo codardo in quel periodo per dedicarmi a un pezzo simile. Ma lei invece era temeraria. Lei lo ha avuto il coraggio. La voce di una poetessa contemporanea, di un'anima fragile che ha trovato la propria strada all'incrocio tra la poesia e il rock and roll, ha saputo rendere magnifiche quelle note sofferte, ma evidentemente non abbastanza sentite dal loro compositore. Bruce Springsteen, in compenso, ha scoperto di poter allargare e diffondere il proprio contributo alla scena musicale in modi nuovi e fin lì inaspettati. Ora può ben dire di essere un personaggio capace di accendere scintille che scriveranno pagine nella storia della musica, e non solo della sua personale storia della musica. La sua marcia ormai appare inarrestabile. Dopo Darkness on the Edge of Town, Bruce continua a lavorare alacremente alla sua musica in compagnia della inseparabile E Street Band. What has the E Street Band meant to you? Ecco, la E Street Band, abbiamo creato un rapporto inusuale, molto stretto. Loro mi hanno permesso di comunicare. Con la loro semplice presenza hanno esteso il confine e il potere della mia musica, capisci? Tra noi c'è un senso di comunità, di amicizia. Ecco, io volevo ricreare quella comunità sul palcoscenico e non sarei mai riuscito a farlo senza la loro devozione e presenza. Sono stati una fonte di energia positiva e di comunione. E poi, scusa, quante persone conosci da quando avevi 18 anni e hai mantenuto una relazione superando tempi buoni e cattivi? Dopo la mia famiglia, sono le persone più importanti della mia vita. Insieme ai suoi compagni di viaggio, incide il disco doppio The River, che esce nel 1980. Si tratta di un album complesso e intenso, cui segue, 2 anni più tardi, un disco cupo e pessimista registrato interamente da solo, Nebraska. On her front lawn, just a twirling her baton. Me and her went for rides in tennis and people down. Il metodo utilizzato per Nebraska, lontano dal caos creativo e dalle fortunate jam session della E Street Band, lascia perplessi molti fan, ancora del tutto ignari del fatto che il talento e l'energia di Bruce stiano per deflagrare nel più clamoroso dei modi. Tra il gennaio del 1982 e il marzo del 1984, per 2 lunghissimi anni Bruce lavora forsennatamente all'album successivo. Per certi periodi si chiude in studio e lavora tutto solo, poi come per reazione si circonda nuovamente dei vecchi amici in cerca di conforto e comunione creativa. Mi piaceva l'isolamento. Così continuai per un bel po', ma scoprii che non solo io non vedevo gli altri della band e loro non vedevano me, ma nemmeno si vedevano fra di loro. Insomma, avevo sperimentato un modo di lavorare decisamente disgregante. A me piaceva perché sono un solitario, ma gli altri non lo apprezzavano. Beh, capii che mi ero trattenuto in California abbastanza. Decisi di convocare la band e di passare del tempo con loro. Dopo mesi e mesi di lavoro divisi tra la West e la East Coast, il 4 giugno 1984 la 7ª fatica firmata Springsteen vede finalmente la luce. La copertina dell'album potrebbe tranquillamente parlare da sola. Annie Leibovitz immortala Bruce di spalle sullo sfondo di una bandiera a stelle e strisce. Blue jeans, muscoli, l'immancabile maglietta bianca e un cappello rosso da baseball infilato in tasca. Niente al mondo potrebbe essere più perfettamente americano, più Born in the USA di così. Può essere strabiliante il potere di una canzone. Quella che sentite ora in sottofondo è Dancing in the Dark, singolo trascinatore dell'album Born in the USA, il disco della vera e propria consacrazione di Bruce Springsteen. E pensare che questo pezzo, nell'impianto originale dell'album, così come l'ha pensato Springsteen, non rientra affatto. È John Landau, produttore e amico fin dai tempi di Born to Run, a chiedere a Bruce di scrivere un pezzo che sia in grado di riassumere l'essenza dell'album, di dargli una direzione compiuta. Springsteen si indispettisce. Ha scritto decine di canzoni per Born in the USA, possibile che ne serva un'altra. Eppure, sbollita la rabbia, nello spazio di una notte Bruce mette insieme le note struggenti che lo consacreranno definitivamente sull'altare della storia della musica. Una canzone non serve soltanto per imprimere una svolta definitiva a una carriera, ma può servire su un piano più ampio per fare il bene della collettività. È il potere della musica, apparentemente impalpabile eppure radicalmente tangibile. Bruce Springsteen crede fermamente in questa straordinaria facoltà della sua arte. Vedi, io penso che le canzoni possano cambiare le cose, cambiarle in meglio. Ti aiutano a focalizzare la mente su quello che sta accadendo e possono darti un aiuto a capire dove puoi concentrare la tua energia, capisci? Io spero così di poter dare una mano per far tornare l'America sul giusto binario. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Streets of Philadelphia è la canzone del 1994 che vale a Bruce un Oscar per la migliore colonna sonora originale del film Philadelphia, toccante grido di denuncia sull'emarginazione di un malato di AIDS. La sintesi della poetica del rocker più famoso d'America, in definitiva, è sempre stata questa: cancellare l'immagine mitica e anacronistica della terra del sogno americano per parlare piuttosto di realtà in cui le persone possano riconoscersi. È questo che ha sempre voluto il ragazzo che sta sulla copertina di Born in the USA: riconoscere se stesso nel proprio adorato paese. Nella sua poetica, Springsteen ha sempre dimostrato una sconfinata sensibilità verso la gente comune e i temi sociali. Del resto, il mondo americano, il suo mondo, affonda le proprie radici nel patrimonio autentico della musica dei primi decenni del Novecento, quando nascono i primi songwriter, quando nasce Woody Guthrie. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. La canzone che sentite, This Land Is Your Land, fu scritta da Woody Guthrie nel 1940 ed è percepita da milioni di americani come fosse un secondo inno nazionale. L'eredità del grande folk singer, in anni più recenti, è stata raccolta da quello che era innanzitutto un suo amico, il grande Pete Seeger, e con il grande songwriter americano che Bruce intreccia la sua carriera, chiudendo il cerchio tra passato e futuro. We shall overcome. We shall overcome someday. Qui Seeger canta uno dei sottofondi più celebri delle battaglie civili che hanno attraversato la seconda metà del Novecento americano, We Shall Overcome, resa celebre anche da una struggente versione di John Baez. Far sì che la denuncia, la protesta, si modulino sulla scorta delle note musicali. Non è dopo tutto quello che anche Bruce Springsteen ha sempre cercato di fare, parlare della realtà della propria terra, spesso dura, difficile, dolorosa, attraverso le proprie canzoni. È su questo binario che la carriera di Springsteen si allaccia idealmente e fisicamente con quella di Pete Seeger, storico cantore delle feroci e sacrosante battaglie di milioni di americani. Ci sta succedendo qualcosa di davvero pericoloso. Ci stanno lentamente dividendo in due Americhe. Si portano via cose a coloro che ne hanno bisogno per darle a chi non ne ha bisogno. Viene infranta una promessa. Al principio l'idea era quella che vivessimo tutti un po' come una famiglia in cui il forte aiuta il debole, il ricco aiuta il povero, sapete, il sogno americano. Io non penso che significasse che tutti avrebbero guadagnato $1 miliardo, ma che tutti avrebbero avuto un'opportunità e una possibilità di vivere una vita con un po' più di decoro e dignità. Se la prima parte della carriera di Springsteen fino all'esplosione del successo di Born in the USA si dipana su un lato musicalmente più introverso, la seconda parte, in particolare l'ultimo decennio, lo vede battersi in prima linea sui temi che gli stanno a cuore. Già strenuo oppositore dell'ottimismo reaganiano, con l'ascesa di George W. Bush, Springsteen affila le sue armi. Nel 2008 appoggia con convinzione la campagna a sostegno di Barack Obama. La piega che l'America ha preso non lo convince per niente. Nel novembre del 2008 Obama sbaraglia l'avversario repubblicano alle elezioni presidenziali e il 18 gennaio dell'anno seguente, in occasione dell'insediamento del neo presidente alla Casa Bianca, un nutrito gruppo di artisti si offre di tenere un concerto in suo onore. Tra questi spiccano Bruce Springsteen e Pete Seeger, entusiasti di stare insieme su un palcoscenico e di cantare la celeberrima This Land Is Your Land, scritta da Woody Guthrie molti decenni prima. È Pete Seeger in persona a parlarcene. Oh, yes, I've got land. This Land Is Your Land. Quando fu scritta, non venne mai suonata la radio. Poi, negli anni a seguire, non fu mai trasmessa in TV né reincisa da qualche cantante famoso. Eppure, in qualche modo era finita sui libri di scuola e i bambini impararono a cantarla. Nel giro di qualche anno fu sulla bocca di tutti. Io, per esempio, la cantavo ovunque andavo. Pete Seeger non è mai stato tanto contento di cantare This Land Is Your Land come quel giorno di gennaio a Washington, ai piedi della statua di Abramo Lincoln e accanto al suo erede morale Bruce Springsteen, colui che ha portato e porterà avanti nuove battaglie per la giustizia e l'uguaglianza, per un'America e un mondo migliori.